fresco come una bella birra, è arrivato, è giunto. Signori e signori, è qui Fergal Covenant. Ti do l'impressione di essere fresco. No, Fergal, per niente. Devo scendere questa aria condizionata. Scusate, mentre lui bisticcia col condizionatore, noi ci salutiamo. Ci ritroviamo domani dalle 13 alle 14 all'interno della Top 50, Top Select. Sì, insomma, chiamatela come vi pare. Io intanto saluto il dottor ingegnere Giancarlo Iola. Ci ritroviamo domani tra pochissimo. Fergal Covenant con I Love America. Intanto adesso sono le 21. Sound American su Radio Kiss Kiss Network è I Love America. I Love America. I Love America. Hello everybody, this is Fergal Covenant. You're listening to I Love America con Giancarlo Raiola on controls. 2 ore of the best of American music. E oggi è lunedì, l'inizio di un'altra settimana. Ma uno dovrebbe essere un po' ricaricato, no? Avendo le pile ricaricate dopo un weekend. Allora Giancarlo, come ti senti questo lunedì? Un po' stanco? Sei a posto? Ah, sta bene, mi fa piacere. Elisa, stai bene? Sì, un po' di stanchezza, sì, ti ho visto, però stai facendo la brava. Allora balliamo tutti quanti per stancarci questo lunedì sera. This is James Brown. Just fly behind the wheel. Eat your heart out, ah sì, un modo americano per dire ragazzi divertitevi proprio come io mi sto divertendo. E non lo so se vi presente il film Rocky 4 dove James Brown presenta questo pezzo e infatti è lì dentro il palco del boxing, il boxing ring, e sta sudando come un matto però si sta divertendo pure. Perciò io mi sento un po' come lui adesso perché sì ho acceso l'aria condizionata però ancora sto soffrendo di questo calore di lunedì sera. But come dice James Brown I feel good. Allora a proposito del boxing, quando uno è giù si fa il conteggio fino al 10. Julio purtroppo è riuscito a farlo fino a 4. Here's 1, 2, 3, 4. So glad to hear Schoolio with the flow back in your ear. This ain't a fantastic words, but I'm still on the mission. Let's see if I can get your attention. Now I want to drop some information, just a little additive to your education. I live my life by the code of the funk, 600 watt F-18s in the truck. Put them on the street, you gotta feel my beat. So throw your hands up if you're down with the seat. Double O-L-I-O with the flow. I'm looking for the body, so better nigga know. 1, 2, 3, it's like ABC. If hip-hop didn't pay, I'd rap for free. Slide, slide, but that's the path. I got something brand new. Nigga, eat a pork chop. Once I get it going, you know it don't stop. I break like any locks. Pennies drop from hood to hood, block to block. Girl, I need somebody to get it going on in this party. Baby, you can do it, take your time, do it right. We can drink some, y'all can do it all damn night. My name ain't Wonder, but I rock the world. Get more pops than a Jerry Curl. Too many looking moves, be looking for clues. There's a party going on now, what you gonna do? So grab your partner, do-si-do. If you don't know who it is, it's Coolio. Slide, slide, but that's the path. I got something brand new for today. Smush, just a brother from around the way. And what I say, I've been a cone on B like Dr. Dre. Coming at him with a pattern and a fresh pair of atoms. I hope he don't trip, cause I don't wanna have to get him. So move your body, baby. Try the homies crazy. The way you shake that ass, it's always amazing. Ain't no party like a West Coast party, cause the West Coast party don't stop. So when you see a young nigga in a Chevy hitting switches, then you gotta get a nigga hit spot. I got signs in my eyes and emotion for your ocean. Coolio got the potion to get the party open. Slide, slide, but that's the path. I got something brand new for today. America. Spot Time. Poi attenzione Flamingo, Belcedo va al comando, attenzione Flamingo che attacca, battute conclusive sul palo. Niente paura amici, anche se non avete mai assistito a una corsa di cavalli e non siete degli esperti, potete tranquillamente giocare ogni settimana dal lunedì al sabato la schedina della Tris. Non è richiesta nessuna competenza specifica, basta scrivere 3 numeri sulla schedina e il gioco è fatto. Al resto pensa alla fortuna che, come è noto, è cieca ma trotta o galoppa benissimo verso di voi. Tris, tanti giocano, tanti vincono, dal lunedì al sabato presso tutte le ricevitorie. Yes. L'estate di Rakam è piena di sorprese. In regalo con il numero di luglio uno straordinario fascicolo interamente dedicato al crochet per vestire la vostra casa di luce e di eleganza. In più lo speciale decalcabile in fiore ricco di coloratissimi fiori e bouquet e ancora tante proposte ricamo ispirate alla campagna. Rakam di luglio vi aspetta in edicola. Yes. Allora capsula, ti senti concentrato? Nucleo, ci sto dentro una zebra timida. E cosa fai? Troppo semplice, la vedo, la placco e le dico: quando vi ho viste ho strippato. Eravate uno spettacolo tu e la tua smemo, tutte bionde blu da paura. E io amo il blu. Lo so, avete fatto dei figli puffi. Oh, lo vuoi un pugno medio forte in faccia? Mu? E tu? Hai una storia così da raccontare? Nel sito www.smemoranda.it c'è lo spazio per le tue storie. Collegati, raccontacele. Smemoranda. Tanta voglia di... Yes, yes. So it is you. You think you'll get away with the same thing again? Yep. Come on, what's my name? Say my name. Come on, come on. Come on, say what's my name? Come on, say my name. Let me whisk you away. Better yet, some fries and a shake. Come on, girl, now don't be late. Just kidding. Cause you like that ballish, that negative degrees on the armish. Better hop in the hoop with that prodish. Cause I ain't having it, girl, I can handle it. Or maybe we could do a little cha-cha. We could do a little ah-ah. I got to go. But before I got to go, you gotta know you got a body like whoa. Or maybe we could do a little ah-ah. Right before we do the cha-cha, let me know. But before you let me know, I gotta make this last forever. Ooh, your eyes take over me. They holding me, feel like they're controlling me, moan on me. Oh, your eyes take over me. They holding me, feel like they're controlling me, moan on me. Baby, I like when you shake it. That freaky face when you make it. Girl, you think you're the shit when the beat hit. Don't stop, make it drop, I can handle it. You know what you're trying to do. All I know that I'm feeling you. Your eyes, like a best of you. From the Empire State, but we can see the moon. Or maybe we can do a little cha-cha. We can do a little ah-ah. Got to go, but before I got to go, you gotta know you got a body like whoa. Or maybe we can do a little ah-ah. Right before we do the cha-cha, let me know. But before you let me know, I'm trying to make this last forever. Ooh, yeah, your eyes take over me. They holding me, feel like they're controlling me, moan on me. Break it down. I don't mean no business, BZ. I'm just trying to make you see that where I'm from, yo, shorty, you the bomb. Don't get me wrong. Yeah. Your eyes take over me. suo primo album dal 1999, Unleash the Dragon, ha venduto più di 4 milioni di copie, però il suo secondo album è uscito tra 2 settimane fa, si intitola Return of Dragon, cioè il ritorno del drago. È bellissimo con tutte queste musiche, molto molto carico, che crea Cisco. That's Dance For Me che abbiamo sentito. Allora, Dance For Me, quando io penso a ballare sulle storielle, i rapporti, racconti per bambini eccetera, penso a Cinderella, Centorella, che purtroppo doveva tornare a casa entro mezzanotte e scappando via ha perso le sue scarpe, che li ha portato a proprio la felicità. Here's Lionel Richie. As I was walking down a path in the woods one day, I came across a vision that caught my eye. There was a lady standing right there beside a well, and I heard a whisper, what you wish for, you can have. Then the vision went away, that I had lost her. The girl I've been waiting for, can't believe I just saw her. She is the finest thing I ever could imagine. Now I want her next to me, cause I want more, I want more. Oh, mind, and I can't forget this feeling. It's her voice that's calling. It's her voice I need. Tales, la racconti per i bambini. Certo che Lionel Richie ci crede con sua Cinderella, Centerola mi pare che si dice in italiano. Un bel canzone per lui, che aveva registrato pure insieme ai Backstreet Boys, però ancora non è uscito questa versione. Sarebbe molto interessante se le potesse passare a I Love America. Allora, il nostro numero di SMS 348 661 9461, scriveteci. This is Lifehouse. Starving for truth, I'm closer to where I started. I'm chasing after you, I'm falling even more in love with you. Letting go of all I've ever longed to. I'm standing here until you make me move. I'm hanging by a moment here with you. Martin e con Damores DJ ogni pomeriggio ti aspetto dalle 2 alle 4 con DNG. DNG. Disco Live New Generation, il programma dance che spacca. Vabbè, ma dicevo così per dire. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, su Radio Kiss Kiss Network. Esatto, Disco Live New Generation. Lo diciamo che è l'unico programma con la mastaba. Si distingue la mastaba di Mereruca. Ecco, appunto. Zitto e balla. Stoi loca e innamorata. Non è divertente, cioè in senso è molto divertente questo brano qua dal suo album J-Lo, it's Jennifer Lopez. E lei dice, ha detto in un'intervista un mese fa, che non ha mai chiesto ad un uomo ad uscire con lei. È una romantica, dice, che aspetta sempre che lui chiede a lei di uscire. Allora, purtroppo è troppo tardi, perché ormai è fidanzato con Chris Judge per sposarsi. Chris Judge tra l'anno prossimo, credo. E insomma, you're listening to I Love America. Adesso arriva Lina, un brano che mi piace tantissimo. Playa no ma, non è a playa come in spagnolo, però vuol dire you're no more a player. to rip me. Every nigga ever sent to me, doing hits to me. Talk about how you want to show with me. And how you deep up some they bust for me. Got my own rules, got my own rules, buy my own clothes, rock my own eyes, got my wrist closed. Don't need yours, but I got yours. Cause they ain't the gon' free no. Ain't it ain't never gon' be. So you better stay ready for me. Those things ain't better than me. Y'all players can't. Every day she walk by, see me on the same block, same crew, like she never seen rocks. Can't watch rings blue, different color boots on, parking gone. Few predicates, ex-cons, rip arms, betting chips, puff medicine, play my gangster beat. Tunnel bangers, flexing clue tapes, banging the street. I'm just a fly thug, it's falling, shorty anxious to meet. Till I die, keep one in the head, make to the feet, but shorty jail bait, might give me 5 to life. Maybe in time, you could be Nas's wife. Play school, study law, I'ma pay your tuition. Come on campus, buy you books, do your babysitting. My usual style, make the future a wow. When you get older, I'ma bless you with a child. See, now you was unaware that this thug had affection. Let me be your angel and I'll be your protection. Understand me now, now. Like my little sisters, I'ma hold you down, down. Got the whole world in your hands. Three little women, got these young boys trying to be they man. Do your thing, shorty, but if they get disrespectful, get on your cell phone, call Big Brother Esco. Now let's go. I can't take it no more. I can't can't take it no more. Questo che dicono 3LW, che sarebbe Three Little Women, cioè Three Little Women, anzi plurale in inglese, si fa women, non women, e sarebbe tre piccole donne. E a proposito di tre piccole donne, saluto a Claudia, Manuska e Skipper, che ci hanno scritto, tre sorelline che ci stanno ascoltando on I Love America. Buonasera a voi. E loro avete scritto alle, loro hanno scritto alle 348-661-9461. Allora vi voglio dedicare questa canzone qua, dalla best rhythm and blues female artist secondo gli americani, it's Mary J. Blige. You is wonderful, something like a miracle. Rest assured, I feel the same way you do. Needing you, it is hard. With you, I can't let down my guard. Stay secure, that's all I'm asking of you. Stay secure. I wish I had words to tell. This feeling that I know so well, but I don't. That day, but I Sound americano su Radio Kiss Kiss Network è I Love America. I Love America. Hot Time. Dalla ricerca Collister, i doposole più venduti in profumeria. Balsamo fluido e novità assoluta, spray bifase ad assorbimento ultra rapido. Freschezza infinita, idratazione profonda e una abbronzatura che dura a lungo come hai sempre sognato. Solari Collister, in profumeria. Io guardo il risultato. Kiss, kiss. Fermati un attimo qui, c'è un secondo così. Prendo da bere, sto sole, mi fa sudare, ci vuole un po' di coca con ghiaccio, mi cambia il paesaggio. Sotto fresco ed adesso si riparte per il viaggio. Dal primo assaggio, come il nono volume, la testa viaggia, trasforma l'autostrada in una spiaggia. Ricordamelo lei, io non lo scorderò mai. Basta volere, la tua vita sai di buona, lo sai. In ogni viaggio sarà sempre con te. Yes, yes. Finalmente posso indossare il perizoma anche nei giorni del ciclo. Perché adesso Nuvenia ha creato l'assorbente giusto. È Nuvenia String Ultra, ideale e sicuro durante il ciclo, con le ali e una forma perfetta sul perizoma. Nuvenia String Ultra, geniale, no? Stia, stia. Still a rose, una rosa e ancora una rosa. Questo è il mitico Aretha Franklin insieme alla mitica Lauryn Hill. Anzi, sarebbero tutti e due mitica, per dire, immagino. Così, no? Sarebbero mitiche. Mitiche, mitiche, sì, effettivamente. Anche tu sei mitico comunque, Fergal, eh? Oh, thank you, mi imbarazzo. Io volevo presentarti come il mitico Alex, quindi qua parliamo di miti. Siamo tutti mitichi, non ti preoccupare. Tra l'altro sono un po' in anticipo qui, ma che ci faccio? Ah sì, devo ricordare un po' i miti di questa sera. Ah, voglio... io pensavo forse stavi un po'... presentazione. Ecco, sorpresa, volevamo fare il mitico Giancarlo Raiola questa sera per fare le sorprese, anticipavi. No. Cominciamo regolarmente Mitikis alle 23, quindi tra poco più di un'ora, però voglio ricordarvi che avremo una puntata speciale questa sera, perché dedicheremo 2 ore di Mitikis a un grande della musica italiana che è tornato con un nuovo disco, cioè Raff, e sarà veramente saranno due ore in cui ripercorreremo la sua ventennale carriera ascoltando tutte le sue canzoni in dei medley che ha realizzato Giancarlo Raiola, veramente molto belli, vi consiglio di non perderli. Poi all'ultima ora avremo un personaggio televisivo che ha festeggiato proprio oggi i suoi 40 anni, la bellissima Alba Parietti. Quindi tutto questo, se volete parlarne in diretta dovete cominciare a prenotarvi già da adesso, 081 631 631 oppure 081 546 1212 sono questi i nostri numeri per venire in diretta con noi. Ok, perfetto, allora un programma tutto italiano, però Rafa aveva cantato in inglese inizialmente, se non sbaglio. Certo, Self Control, ascolteremo sicuramente. Ok, allora la cultura italiana dalle 23 in poi, però adesso la musica americana, this is In the Diary with Video. Sometimes I comb my hair and sometimes I won't. Depending on how the wind blows, I might even paint my toes. It really just depends on whatever feels good in my soul. The name of the game, a misconception, a mass deception, something's gotta change. Don't be offended, this is all my opinion, ain't nothing that I'm saying long. This is a true confession of a life learned lesson I was sent here to share with y'all. So get in where you fit and go on to shine, clear your mind, now's the time. Put your soul on the shelf, go on and love yourself, cause everything's gonna be alright. Amica Flash e la Cechi e Mori Production presentano Trailers in FM. In ascensore stretti, in un vortice di caldo, sudore, di grande eccitazione e passione. Mi scusi, a che piano va? Al quinto. Passerotto, non andare via. Ma che fa? Non mi stia così vicino, mi turba. La prego, fa caldo. Si scosti, la prego. Mi inquieta moltissimo la sua presenza. Si allontani, la prego. Da Per incanto o per delizia. Melincastro per delizia. Venerdì dalle 23. Con Pippo Pelo in Facciamo Candy Candy. Il film eroticomico che fai tu. No doubt, Gwen Stefani è la cantante e lei non vuole che parla al suo ragazzo perché il suo ragazzo le sta per lasciare. Sembra è triste questo pezzo, Don't Speak, però un mega hit per loro nel 1997, anche se l'album era uscito, Tragic Kingdom, l'album era uscito 2 anni prima, nel 95. Bravi, e loro hanno un nuovo album pronto già che si chiama Return of Saturn, è uscito l'anno scorso. Allora saluto Illy che mi ha scritto sulla 348-661-9461, dice hello, a big hug for all the family, famiglia tua, famiglia mia, chi, hello anyway. What's the latest? Speak your heart, don't bite your tongue, don't get it twisted, don't miss you. What's your problem? Let's resolve, we can solve. What's the cause? It's official. You've got issues, I got issues, but I know I miss you. Yeah. Who should be hurt? Who should be blamed? Are you supposed to change? Who should be hurt? Should be saying, am I supposed to change? Are you supposed to change? Who should be heard? Will we remain? Oh, I. Supposed to change. You give me bits and pieces. You trying to blame me when I don't even know the reason. I think it's just the season. Maybe the month, maybe the feeling. Now tell me what's the reason. Stupid, yo, looks like it's even. So cut the crying, cut the coughing, cut the wheezing, girl. Put the blaming, cut the naming, cut the sneaking, girl. I think you need some prayer, better call a deacon, girl. So get your act right or else we won't be speaking, girl. So what's it gonna be? Me and you? Or is it gonna be? Who blames who? I'm tired of these things, I'm tired of these scars. I think I'm gonna give me a drink, I'll call you tomorrow. Ecco, Timbaland che ci dà un po' di consiglio, dice, ah, me ne vado a prendere una birra, ti chiamo domani. Sì, questo è In Resolution, sono le 22. Difficilissimo fare il twist quando hai le cuffie sulla testa perché si incasina tutto, però noi ci stiamo divertendo proprio qua a provare a farlo, magari con Giancarlo Raiola, il mio partner perfetto per fare il twist. Dai, torni a fare il sound control, così andiamo avanti con la bella musica. You're in the second hour of I Love America. My name is Fergal Kavanagh e questa musica degli anni 60 non fermerà adesso, perché ascoltiamo un brano originalmente fatto da Neil Diamond, poi dai The Monkey Keys, però versione anno 2001 from Smash Mouth. This is I'm a Believer. live. America. Drop a beat. Tell you any idea how hard it is? I can flex in 25 positions, but I only work here to pay my tuition. Yo, tantalizing teaser, tabletop pleaser. Give me what I need, MasterCard or Visa. Lap dance, fantasy, picture up on the Norwalk canopy. Rock left extended his hand to me, like Billy D, but he feeling me. Take me away from here, so far, where they ride horses. No cars, no more stripping, and balls. Me and you clap against the arm. Wycliffe Jung dice che è un perfect gentleman, proprio un cavaliere. Non crede che se avresti telefonato a sua madre e dire che è innamorato di una spogliarista dentro il discoteca. Oh, Wycliffe Jung, questo ti porterà alla Heartbreak Hotel come Whitney Houston ti porta adesso. Spot time. Nessuno ti regala niente. Arctic Vodka alla frutta ti regala due Porsche Boxster e 50 cellulari Ericsson. Nessuno ti dà una seconda possibilità. Arctic ti fa giocare due volte, al telefono e su internet. Nessuno. Meglio comprare una bottiglia di Arctic. Arctic, rompe il ghiaccio. Scade il 31-12-2001, Outmin MP36434. Yes. Oh, quest'estate ero al mare, no? Stavo nuotavo e a un certo punto indovina cosa? Cosa? Il calamaro gigante! E nuotava proprio verso di me! E allora io ho cominciato a nuotare. Quest'estate vedi di avere qualcosa da raccontare. E se non ce l'hai, inventatelo! Con Blu, se attivi o ricarichi una carta Blu ON e consumi almeno 50.000 lire tra luglio e agosto, da settembre hai 50.000 lire di telefonate gratis per raccontare le tue vacanze. Per saperne di più, chiama Blu al 198. The Sound of Gloria Estefan, è proprio felicissima Gloria Estefan, ci credo, perché sia lei che il suo marito Emilio Estefan sono stati inaugurati al National Academy of Popular Music Songwriters Hall of Fame, cioè un'aula per le persone famose, diciamo, per i più grandi songwriters, quelli che scrivono i canzoni di tutto il tempo, e addirittura loro sono i primi artisti ispanici ad entrare in questo Hall of Fame, quindi bravi a loro, questa specie di museo per questi che la meritano veramente. Ok, sempre tema ispanico, Lo Hare per ti, Paulina Rubio. Se eso de estar juntos los dos. Esto de planear futuro siempre acompañándonos. Me queda bien aceptar como en un tango de Gardel, donde la buena y el malo al final siempre quedan bien. Analizando de ti te veo más loco que yo. Pero me juego por ti, de todo y de una sola vez. Tanta emoción me impresiona, y estoy segura que esta vez. Daré por ti porque lo siento, porque tú me quedas como loca bien todo. Y cuando me besas siento que disparas en medio de mi alma. Kiss Kiss Network. Until you until you use me My brother sit me right down and he talked to me. Oh, he told me you were that I ought to not let you just walk on me. And I'm sure he meant well. Yeah, but when I'll talk was through. And I said, brother, if you only knew, you'd wish that you were in my shoes. You just keep on using me until you use me up. Until you use me up. I met her at a party drinking Long Island iced tea. Big, thick legs, the finest thing you'd ever see. Jet black hair, pure skin, golden bronze. Trying not to stare so she won't think nothing wrong. She smiled at me, I know she knew I knew what she was doing. I pushed up on her like Shaquille O'Neal on Patrick Ewing. She took me to her crib and massaged me for an hour. Cooked some eggs and grits while I washed off in the shower. Broke me off some ends even though I didn't need it. My boys tried to say that I was just being greedy. But let me tell you this, and hip you to the news. I ain't got no beef, damn it feels good being used. I wanna spread the news. That if it feels this good getting used, oh, you just keep on using me. Bello questo, proprio suggestivo secondo me. Questo Use Me di Cool Bone and I Love America. Un po' di genere diverso, è proprio carino. Però io sono un po' sconvolto, diciamo, in questo momento. Perché ho appena letto una cosa qua che sembra che io a livello di, non lo so, 800 anni fa vengono lo stesso albero genetico di Emma Bunton dai Spice Girls. Pazzesco! Believe it. live. America.